apagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. L'arte per taluno è una mistificazione della realtà, per qualcun altro è un'esaltazione degli aspetti nascosti, dei sentire sotterranei rispetto al nostro punto di vista. Per altro è una sinestesia, è un insieme di sensi toccati, sollecitati, esaltati da una chiave misteriosa che riuscirebbe a scardinare la cupa copertura di ciò che ci circonda, dando poi visione, visibilità e sensazione rispetto a ciò che soltanto i poeti, gli artisti possono cogliere, ma a volte sono talmente bravi e talmente universali nel loro linguaggio che riescono a farcelo cogliere anche a noi. Perché faccio questa premessa? Perché questa mattina ho perso di vista me stesso, un senso di estraneità fortissimo, mi sento come l'avatar azzurrino con la coda, che in realtà è una persona dentro un corpo che non gli appartiene. Avevo finito la mia acqua di Colonia, che uso da 20 anni. Questa mattina, disperato, correndo alla radio, entrai in un negozio che vende profumi e la comprai. Me la sono immediatamente messo, non era lei. Era un tarocco, probabilmente, fuori completamente uguale, la confezione, la scatola, la boccetta che da 20 anni mi dà la sensazione di me stesso, dentro c'era un'altra cosa. E adesso non sono più me stesso e quindi ho una sorta di contraffazione del mio essere e mi sembra la maniera migliore per parlare del fatto che forse nel nostro profondo siamo tutti convinti di essere artisti, ma lo siamo veramente? Buongiorno Gianluca, sono l'autista di autobus. Mi era venuta in mente questa poesia a proposito del tema di oggi. È da tempo, da tanto tempo che ti amo, con quell'amore nascosto, delle radici che amano con tutta la forza della terra fino a sbocciare in fiore. Ho ascoltato la puntata di Melog e ho pensato che mi piacerebbe lavorare come autrice o anche come co-presentatrice di questo programma e lascio il mio numero di telefono che è 340. Grazie. Hola, yo soy Antonio Casella, tengo 28 años, soy italiano y vivo en Roma. Estoy en este momento, estoy estudiando y trabajando como sound designer. Sai, una cosa ti devo dire, io ingoiai sangue ed allora sono diventato vampiro, pertanto ti canto una canzone. Punto Freud, alzati Italia. Mi rendo conto che per chi ascolta potrà sembrare una sensazione di estraneità rispetto al rigore, alla compostezza, alla banale e quotidiana visione che ha del suo prossimo. Per noi è pane quotidiano, nella nostra segreteria telefonica naturalmente, nella modestia del nostro palcoscenico entra una quantità di persone che sperano difendere anche questa fessura nella grande muraglia dell'indifferenza comune per dichiarare al mondo che loro sono artisti. Tutti noi ci sentiamo artisti, è inutile dirlo, in qualcosa tutti noi abbiamo la profonda convinzione di avere un'eccellenza. Naturalmente ci confortiamo e ci consoliamo del fatto che il mondo non ci riconosca tale eccellenza, dicendo a noi stessi che in realtà fa parte dell'umanità questa sorta di cecità nei confronti di sensibilità particolarmente sviluppate, o sempre pensiamo che debba venire il nostro momento, arriverà il nostro momento, ci affanniamo con un manoscritto sotto braccio, con un CD di musica, con delle croste schizzate di vomito nascoste in qualche recesso di casa nostra in cui pensiamo che prima o poi passi la persona, le guardi e rimanga abbagliato e preso da sindrome di Stendhal, riconosca in noi i tratti del grande artista. Ho spedito questo manoscritto sperando in qualche misura che questo paese si potesse essere interessati a una voce un po' anche fuori dal coro, no? Certo. Un po' fuori da, diciamo, dai soliti nodi, dai matrappanzini, comunque non le ha risposto non mi ha risposto nessuno, certo, ma nemmeno una riga, ma nemmeno voglio dire una telefonata, che non entro neanche nel merito dell'educazione e della maleducazione, però non vorrei che poi questo significasse che in questo paese le cose vengono anche un po' cestinate a priori. Io vorrei sapere lei la sua opinione, perché è una voce importante. Non lo so se cestinano. Vorrei neanche che lei, dottor Costanzo, si prestasse pure lei a questo gioco, diciamo. Quale gioco? Non vorrei che in qualche misura no, in qualche misura in questo paese ci fosse spazio soltanto a chi appartiene a certe conventicole, a certe consorzerie. Poi è spaventoso quale sia il livello di reattività degli aspiranti artisti, dei convinti sceneggiatori, dei possibili cantautori, quando si sentono contraddetti, quando entrano nell'impatto diretto con colui che dovrebbe essere Caronte, dovrebbe essere il traghettatore del loro talento dall'inconsapevolezza, dal buio dell'essere sconosciuti alla piena luce del riconoscimento. Questo lo avrete ricordato. È Sergio Castellitto nel film di Virzì, Alice va in città, Caterina va in città, che era convinto di avere una sceneggiatura nel cassetto degnissima della massima considerazione, la fa vedere a tutti, addirittura approfitta biecamente di una madre nota, di una compagna di scuola di sua figlia, per proporgliela, e poi va al Costanzo Show, che allora in quegli anni era il luogo della massima speranza di riuscire a essere notati. Un'infinità di aspiranti artisti hanno trovato nel palcoscenico il Costanzo Show, che era veramente la linea demarcazione fra il mondo delle tenebre e il mondo della luce, hanno trovato la speranza, perlomeno la possibilità, di essere conosciuti. Tantissimi, anche che oggi sono importanti personaggi della televisione o del mondo dello spettacolo. Va da Costanzo e tira fuori quella che è la frenetica e folle immaginazione di un artista frustrato. Beh, questa mattina io voglio essere come allora era nell'immaginario comune, nel nostro piccolo Costanzo. Voglio che questa trasmissione diventi, per il lasso di un'ora scarsa, il luogo di possibilità di esposizione di tutte le vostre velleità artistiche. Foste voi poeti, foste voi pittori, foste voi pensatori, filosofi, immaginatori, costruttori di realtà fantastiche, chiamate all'800 24 00 24. Io, che privo del mio profumo ormai non ho possibilità di giudizio, vi darò massima possibilità di espressione. Agenda ignorante, è sorda, non ci sente. Sì, c'è sta una cosa che ammaccire, l'indifferenza. O se, io so 5 anni che sta lottando per imporre un mio discorso. Risultato? Niente. Il vuoto. Ma però basta, mi sono scocciato. Io mi concedo 6 mesi di tempo. O io sfondo, o ma brucia. Che dice, ma brucia? No, tu sfondi. Marcè, tu c'hai la faccia di quello che sfonda, so io che mi brucio, altro che... No, io voglio ricere, dico io. Ma uno come a me. Ma che problema tenesse a Los Angeles? Guarda a me, sta per lì. Oh, when the sun rise and low on Broadway. Oh, when the sun rise and so today. Già su Facebook mi stanno dando reazioni vive a quello che io sto dicendo, a quello che io sto provocando. Giulia mi scrive: Susan Boyle è l'emblema della rivincita dei nerds artisti, infatti già venduto 7 milioni di copie. È la bruttissima, orrenda, obesa, malcurata casalinga che in un talent show inglese è riuscita a far parlare di se stesso in maniera estrema. È un po' difficile capire quando il mondo che seleziona e decide chi appartenga al rango degli artisti, chi invece appartenga al rango delle persone banalmente comuni, non vada delle volte a classificare l'esempio mostruoso, proprio per dare risalto al suo potere luciferino, di decidere chi debba passare e chi non debba passare. Ma molte volte la frustrazione maggiore viene dal fatto di vedere, appunto, soprattutto attraverso la televisione, che è il grande classificatore dell'esistenza. Oggi ciò che distingue l'artista, il pensatore, il valente opinionista dalla persona che non ha diritto di espressione se non nella ristretta cerchia familiare, nel bar degli amici e nelle uscite e le scampagnate fuori porta, è appunto il fatto che la televisione lo chiami, che un luogo eccelso di visibilità televisiva dia il suggello a questa persona di appartenere al mondo di coloro che possono esprimersi artisticamente, anche soltanto tacendo, anche soltanto soltanto facendosi vedere. Beh, noi abbiamo una volta, agli inizi di questo programma, 5 anni fa, compiuto il terrificante gesto luciferino e probabilmente di questo ancora ci stiamo pentendo. Breve canto notturno. carillon ed un bastone. Questo accadde una mattina che io mi ruppi il menisco, venni comunque stacanovisticamente a lavorare per dare prova del fatto che io fossi infermo, per far compatire naturalmente, farmi compatire dagli ascoltatori, che sempre ha un grande successo. Battei il bastone, sintomo della mia infermità, sul tavolo, lo colse Mauro Petrarca, allora cantautore macabro, che vivo avevo ogni tanto suscitato dal suo rigor mortis, parlando di lui, suscitandolo, citandolo in trasmissione, ma da allora era diventato un po' il cantore. Noi citavamo un argomento, ci arrivava subito l'MP3 di Mauro Petrarca, che aveva sottolineato la nostra trasmissione. Beh, Petrarca in questi 5 anni ha fatto molta strada. Petrarca oggi è qui in studio con noi. Mauro Petrarca, buongiorno. Buongiorno. Petrarca è la case history, come si dice nel mondo dello spettacolo, che serve a dimostrare che in fondo una possibilità c'è anche per gli appartenenti alle velleità apparentemente più disperate. Io Petrarca lo conobbi come un ragazzo che andava a cantare ballate ai funerali e cercava di vendere la sua professionalità, come altri lo fanno ai matrimoni, usando una sua vena macabra. Andavi per cimiteri allora e cantavi canzoni esclusivamente legate all'aspetto macabro cimiteriale, vero Mauro? Sì, in tutta quella prima fase ho avuto da cercare ispirazione proprio in quei luoghi, e tutte le prime ballate erano appunto incentrate su personaggi defunti e avevano come sfondo costante il paesaggio del cimitero. La televisione ti colse, facendo un rapido excursus, proprio per questa tua vena, e tu diventasti personaggio a X Factor. Sì, sì, è stato quasi una rivelazione. Ecco, non pensavo che la televisione, almeno quella ufficiale, potesse dare spazio, anche non grande però significativo, ad una voce così fuori dal coro, e ne sono rimasto piacevolmente colpito di quell'esperienza. Ecco, tu sei riuscito a entrare in televisione. Fermiamoci un attimo qua, perché già abbiamo compiuto un passo lungo anni luce rispetto alla possibilità di cantare nella propria cittadina, nel proprio paese, nel gruppo degli amici, coi primi gruppi degli amici, affidandosi ai primi agenti, alle prime persone che sembrano disposte a fare la tua fortuna, ma poi in realtà non ti portano a nessuna parte. Sei arrivato in un programma notissimo in televisione, anzi il talent show per eccellenza della televisione italiana. Fermiamoci e sentiamo Giulia. Giulia, buongiorno. Sì, Gianluca, buongiorno. Stamattina è il mio momento. È il suo momento? Di gloria. L'ho atteso tutta la vita, Giulia. Ma no, sto scherzando, però... Come? Diciamo io che... la sto prendendo sul serio. Mi diletto in tante cose. Diciamo che ho scritto poesie, scrivo lettere, faccio collage, però nessuno conosce nulla di tutto ciò. E allora, questa mattina è qui per esternarci il più impronunciabile dei suoi peccati, che è quello di fare poesie. Sì, anche... Anche adesso ne scrivo meno, ne ho scritte tante un bel po' di anni fa. E dove le nasconde? E sono tutte in un bellissimo quaderno con le violette disegnate, e praticamente sono poesie che io ho dedicato solo a mio compagno, per cui le conosce solo lui. Ah, però fra voi è un gioco, fra voi lei legge la poesia e lui l'ascolta, quindi... No, io non le ho mai lette, le ho sempre fatte trovare. Ah beh, come nel romanzo La Chiave. È un vostro gioco d'amore, lei abbandona casualmente. Le fate trovare come dei piccoli regalini più o meno nascosti. E lui fingeva di non averle lette? No, lui ha sempre molto apprezzato, sempre molto apprezzato. E ultimamente invece sono sulla scrittura di lettere, sto scrivendo lettere a tutti i miei cari, un po' come se fossero dei testamenti. Ma poi sono anche costretti a rispondere? Com'è? Sono costretti a rispondere? No, non rispondono, piangono. Vabbè, ma... quando le leggono piangono, e perché lei deve per forza affliggere i suoi cari facendoli piangere? Io vorrei far sorridere tutte le persone, lasciare un ricordo di me, sai? Vabbè, ma è un ricordo mesto, scusi, io vorrei che la gente, quando mi pensa dopo morto, ridesse, sorridesse o sentisse presa da crampi al basso ventre, ma mai piangere. Ascolta, io non voglio che siano tristi, è solo che dicono che sono commoventi. Che devo fare? Ho partecipato anche a un concorso. Vediamo se riesce a commuovermi. Se riesce a commuovermi con soltanto due versi, e dal tono rotto della mia voce la commozione, vedrà che sarà raggiunto, no, il suo scopo. Vuoi che ti lega una piccola poesia? Beh sì, no, però mi deve far piangere, deve commuovermi. No, beh, questa è una poesia che ho scritto al mattino presto. Tu sei come il pensiero in un giorno di sole vestito di luce, e di notte il mio uomo, chiuso come il mondo fra le mie braccia, vestito d'amore. Vestito d'amore sarebbe tutto nudo. Anche. Grazie, veramente non mi ha fatto piangere, però ci è andata molto vicina. Damiano. Salve. Lei fa l'estetista. Esatto, una strana all'estetista, perché in genere è un lavoro di appannaggio femminile e io sono un'eccezione che evidentemente conferma la regola. Ma le mani addosso chi le mette, uomini o donne? Soprattutto donne. Gli uomini ultimamente, diciamo che oramai sono 8 anni che faccio questa cosa, in realtà io nasco come biologo. Poi per caso, avendo la fidanzata che faceva questo lavoro, si è trovata senza una dipendente così di punto in bianco, io mi ero appena laureato, mi stavo godendo gli allori, vieni in negozio che in una settimana, intanto che trovo una sostituta... E l'ha messo a fare le cerette. Esatto, sì, anziché a fare le cerette, a fare i massaggi... Insomma, da biologo, anziché studiare le cellule, mi sono trovato a studiare le celluliti, insomma, vabbè... e gli annessi cutanei, che sono poi i peli in termini tecnici, e così man mano passava il tempo arrivavano delle possibili dipendenti che non rimanevano lì poiché non erano brave o non si trovavano bene con la titolare, e intanto io è diventata la specialità del negozio, dal semplice receptionista quello detto, insomma, sto a fare sto lavoro, sì, cosa ci servirà? Naturalmente, diciamo, non ci servirà una scienza a fare delle cerette. In ogni caso, anche se ci serve una scienza, quella ce l'ho con una laurea. Sì, solo per capire, biologo laureato specializzato, sì, in cerette, la sua espressione artistica dove la mette? Nel plasmare nelle sopracciglia, sì, beh, fare i peli, quelle cose lì sono una cosa sì, che bene o male è abbastanza classica. Le sopracciglia invece, purtroppo, anche la mia titolare ha dovuto ammettere che ho una particolare, un colpo d'occhio. Quando naturalmente diventa quasi una deformazione professionale, quando entra qualcuno casca subito la mia attenzione sul sopracciglio, come potrei, come lo vedo nel futuro, come sarebbe valorizzandolo. Quindi lei è un artista, nel senso, lei si sente di avere un ideale pennello, quando in realtà sono soltanto delle pinzette, delle forbicine, non so bene che attrezzi usi. Nel modellare le sopracciglia le sente un artista, quindi le sue opere d'arte sono opere di body art, sono signore e signorine, anche signori che escono dal vostro atelier con delle sopracciglia dipinte come se le avesse fatte Picasso, ma in questo caso non sarebbero certo perfette. Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato. Oh, oh, oh, ma perché tu non pensi a me? E ci sarà una ragione. Che cos'è taratapunzie? Non lo so, taratapunzie. Tu vuoi la mia pelle, sì? Lo so che vuoi la mia pelle! Lo so che vuoi la mia pelle, sì! Basta! Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Nella scellerata e meravigliosa maniera che ha la televisione comunque di confezionare l'umanità, come nelle nostre campagne una volta si confezionava il maiale, non lasciando nulla poi al residuo da buttare via, quindi tutto va bene, anche i provini del talent show diventano un programma, anzi forse sono la parte migliore, su quella in cui il dileggio dell'artista mancato, dell'artista improbabile, insomma l'esito più contemporaneo e più vicino alla nostra esperienza dell'antica corrida, che in fondo è stato uno dei programmi storici della televisione italiana, che nasce non a caso dalla radio, è la grande rappresentazione delle velleità frustrate, dell'impossibilità di essere qualcuno e qualcosa. Melog 2.0. Io non sono la Gioconda e ne voglio esserla. Sto facendo tutta a memoria, a orecchio. Mi manca solo il sorriso. E modestamente non faccio per vandarmi. Ed è bene che si sappia nell'arte tutta. Il sorriso della Gioconda, io ce l'ho qui, tutto qui ce l'ho, vedi? Ma maestro, sono 20 anni che sto in questo studio per imparare a dipingere e voi non mi fate fare mai niente! E beh, adesso alziamo la voce! No. Alziamo anche le voci! Ci permettiamo anche di fare i gestini con le dita! Ah sì, facciamo i gestini, eh! Silenzio! Vogliamo stabilire una volta per sempre chi è che comanda in questo atelier? Sono io, il maestro, il professore, il celebre Scorcelletti. È chiaro? Silenzio! Tu sei l'allievo, idiota, allievo. No, ma chiama le cose su Zapposca. Io divento pazzo. Chi è che paga l'affitto di questo studio? Io. Chi è che caccia i soldi per fare la spesa al mattino? Io. Chi è che caccia i soldi per comprare i pennelli, i colori, eccetera, eccetera, eccetera? Sempre io. Lo vedi? Sei fesso. E quindi non hai il diritto né di parlare né di pittare. Silenzio! Si vede anche come cambia la qualità e soprattutto il campo di attenzione della vellità artistica media a seconda delle epoche. Questo film, che è del 59, Totò, Eva, il pennello proibito, era ancora il tempo in cui la vellità artistica di tante signore, di massaie, di ragionieri, di impiegati, anche di giovani studenti, era quella pittorica. Non so perché l'aspirazione artistica era fortemente feconda, e infatti le case delle nonne, delle zie, sono sempre piene di quadretti di nature morte, di gatti stecchiti, di carogne di uccellini, di terrificanti prove artistiche. Di solito hanno delle bellissime cornici, molto di gran prezzo, hanno molto più speso le nonne, le zie, i poveri parenti in confezione di cornice che probabilmente in sforzo artistico, anche perché, come ci dice Elena su Facebook, l'arte richiede impegno, richiede metodo e richiede applicazione. Ma invece non so perché, passando poi gli anni, la televisione ha dato un altro segno all'espressione artistica. L'espressione artistica è la paraculesca maniera di rappresentare anche l'orripilanza, la propria assenza di talento, perché si sa che tanto prende tutto, si sa che con la grande norcineria della televisione di tutto farà qualcosa di commestibile. Posso fargli recitare una poesia? Memorizzalo, è una frase sola, poi guardi Vanessa e gliela dici. È una frase sola, memorizza, non leggerla. Vai Mario. Sì, sta come d'autunno, gli alberi, le foglie. Che hai detto? Sì, sta come. Sì, sta come, virgola, d'autunno, virgola, sugli alberi, virgola, le foglie. Quindi che mi hai detto in pratica? Che magari, se sei conosciamo, forse autunno è il periodo, la stagione migliore. Sì, sta come. No, sì, sta, non è il nome. Di chi può essere questa poesia? Soldati. E c'è scritto ma soldati sopra. È il titolo della poesia. Ah. Scusa, sorry. Gentilissima. Complimenti, siete tutte belle ragazze. L'arrampicata su presumo Ungaretti è troppo ripida e faticosa per il concorrente di un provino di amici di Maria De Filippi, ma comunque ha avuto la sua gloria, comunque ha avuto il suo momento di esposizione, il suo momento di visibilità, perché è apparso in televisione, poi è apparso su YouTube, poi stamattina Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini l'hanno ripreso, lo trasmetto alla radio e addirittura ne parlo. Quindi vedete che la televisione permette comunque una maggiore apertura alle giovani, antiche, anziane o sempiterne aspirazioni artistiche. Indicai quella carogna chiamando gli avvoltoi. E tra tanti, soltanto un avvoltoio si affacciò dalla cornice di rami. Mauro Petrarca, quanto hai sudato e quanto hai faticato? Cos'era successo quella mattina? Perché mi avevi mandato questa poesia? E non mi ricordo, sono passati 4 anni, mi sembra, da questo. Era un lavoro costante sulla sua trasmissione. Ogni giorno si trattava uno o più argomenti e quindi ogni giorno concepivo una o più liriche e musiche ispirate a questi argomenti. In questo caso, se ricordo bene, si parlava della bambola Barbie, ripercorrendo, ecco, l'epoca d'oro di questo tipo di oggetto, e quindi ne ho dato una mia lettura personale, molto personale e chiaramente legato. Quindi tu tutti i giorni dedicavi parte alla tua giornata con somma costanza nel cogliere quello che era il punto, un argomento fondamentale della trasmissione, trasformarlo in MP3 e mandarmelo velocemente, sperando che lo riprendessi il giorno dopo. Sì, però ecco, questo avveniva al 50% forse rispetto al lavoro inviato, un 50% veniva mandato in trasmissione, il rimanente lo conservo ancora, lo custodisco gelosamente, anche perché di tanti lavori che ho scritto dopo in forma di canzone, il germe, il soggetto di base erano proprio quelle idee. Quante ne avrei scritte di canzoni su Melog? Era un canzoniere melogmane che era un work in progress, ricordo che erano diversi CD già pieni, ecco. Sì, non so. Ne mandavi, alla fine non ce la facevamo più, era più ogni giorno non faccio in tempo di dire buongiorno, già mi arrivava la canzone buongiorno di Petrarca. Senti, invece andando avanti, poi finalmente ti ha colto la televisione, ti ha preso, è stato per me il più grande dolore, perché la mia creatura, vederla così trattata, col cilindro in testa, con la biacca bianca in faccia, con quella cornacchia cadavere in mano che mettevi in mano all'avventura e le fingi di rimanere inorridita, ti hanno fatto fare cose terribili, ti mandavano agli stadi a portare sfiga alle squadre avversarie, hai rischiato le botte, cose del genere. Sì, sì, sicuramente la televisione ha un prezzo da pagare, certo. È una vetrina importantissima. Nulla da, niente per nulla, è chiaro. Sì, quindi penso che chiunque ci vada, chiunque si presenti ad un programma del genere, sia consapevole di quello che può accadere, ma ecco, andrebbero prese da queste esperienze soltanto le cose più positive che ci sono diciamo, sicuramente. Di te non hanno colto la vena poetica, ti hanno... in maniera radicale individuato come uno, potevano far finta che fosse lo iettatore e ti hanno usato quello e cantare le canzoni che portavano sfiga, tanto per essere chiaro, questa era la cifra, sì, che hanno cucito addosso. Sì, sicuramente risultava, penso, più comoda questa cifra rispetto alla cifra del cantautore abbastanza impegnato, perché rappresentarlo era molto più difficile, mentre la figura del portasfiga è sicuramente molto più facile da proporre e da capire, e quindi è immediata. Però si è esaurita facilmente questa. Si è esaurita molto facilmente, però ripeto, ecco, va bene anche così, perché si è approfittato di questo periodo. Senti, di visibilità. Senti, mi dici il punto di vista invece. Castel di Sangro, un piccolo comune dell'Aquilano, sì, oggi sarà sommerso la neve, in cui Mauro Petrarca era uno dei tanti cittadini, avevi la tua attività, avevi un negozio dove affittavi CD, sì, cose del, sì, genere, queste cose qua. Come ti ha percepito diversamente? Improvvisamente sei diventato, nel periodo del fulgore, del passaggio in televisione, in cui eri in prima serata con Simona Ventura e la Maionchi, ecco, come sei stato considerato? Hai lambito il piacevole, la piacevole pietanza del successo? Beh, credo di sì, insomma, anche stando ai racconti dei miei fratelli, in quel periodo era un via vai proprio nel video noleggio per chiedere informazioni, per salutare, per complimentarsi, e soprattutto, ecco, risultava a tutti, magari penso un po' insolito, che un personaggio che ha il mio tipo di impostazione si fosse trovato all'improvviso in una manifestazione televisiva, proprio nel senso televisivo più stretto, Simona Ventura, soprattutto, che rappresenta quel tipo di televisione, e quindi è stata una, penso, piacevole sorpresa un po' per tutti. Ecco, la nostra case history, Mauro Petrarca, si interrompe qua, e dopo vedremo e sapremo qual è stata la sua evoluzione, poi non si è fermato qua. Bruno, buongiorno. Buongiorno a lei. Artista in cosa? Andiamo velocemente, vedo una sfilza di aspiranti artisti che vuole parlare. Che sa fare lei di artistico? Io lavoro con il video. Ma non si vede alla radio, ci spiega. Non si vede alla radio. Io ho iniziato parecchio tempo fa manipolando flussi video all'interno dei rave di musica elettronica. Quindi lei crea degli effetti fantastici usando i video durante i concerti a immersione totale? Sì. E questa è stata un po' l'evoluzione di alcuni pensieri che ho avuto. Quindi ho avuto anche la possibilità di esprimermi attraverso quei canali. Però quello che volevo dire questa mattina era appunto la posizione della televisione riguardo la creatività e l'essere artisti. Vedo spesso e volentieri le pubblicità di queste collane settimanali sul decoupage o sull'uncinetto che ti... quello però, quello è bricolage domestico, non è espressione artistica. Bricolage domestico, però ci stanno tantissime persone che tendono a considerarsi degli artisti perché riescono a copiare e incollare alcune figure. Ma quello serve più per tenere buone le persone a casa, che stiano tranquille, ma chi ha una moglie che fa il decoupage almeno è tranquillo, se ne sta lì, ritaglia, cuce, vernicia e passa il suo tempo in mesta e tranquilla maniera. Manfredo. Ciao Gianluca, buongiorno. Artista in cosa? No, io no, assolutamente non artista. Ah, non sa far niente? Non so, cioè, di artistico. Niente, io credo di essere uno dei pochi in Italia che non ha mai scritto una poesia, non ha mai scritto un libro, niente proprio. E mi piacerebbe, perché come tutti quanti credo la voglia di esprimersi ce l'abbiamo. Io non ci riesco proprio, cioè non mi è mai riuscito, ho provato a fare fotografia da pischello, ma non l'ho mai fatta vedere a nessuno. Viene sempre tutto schifoso. Esatto, cioè quello che fanno gli altri è sempre meglio di mio. L'unica cosa su cui me la cavo è la cucina, perché ci lavoro anche nel mezzo, però anche lì gli altri per me sono più bravi. Io non ho mai scritto una poesia. Ma lei ne soffre di questa sua radicale e genetica impossibilità a fare qualcosa di artistico? No, sì. Gliene importa. Sì. Francamente sì, perché ho molti amici che chi fa film, chi scrive, chi canta, chi suona. E niente, per cui un po' ne soffro, perché comunque sarebbe una possibilità. Però si renda conto, Manfredo, lei ha una funzione nella società. Se non ci fossero i Manfredo, che sono radicalmente negati a ogni forma artistica, non ci sarebbe la possibilità miserrima e compassionevole di tanti suoi amici di fingersi artisti o di illudersi di avere possibilità artistiche confrontandosi appunto con lei. Quindi ben vengano i Manfredi, che permetteranno a tutte le mezze calze di poter avere l'illusione di avere delle qualità artistiche. Giuseppe. Ciao Nicoletti, sono Beppe Elia. Senti, io sono un frontman, scrivo canzoni per una band che fa son cubano salentino, una cosa a metà fra il cubano e il salentino. Sì. Ci chiamiamo Anima Lune e io non sono d'accordo con te per un motivo molto semplice, perché tu affermi che alla fine dei conti uno per essere artista deve per forza di cose apparire sui canali che sono i canali, diciamo, i televisivi, i radiofonici. Io credo invece che uno per essere uno si sente artista perché effettivamente lo è, cioè alla fine dei conti io nel mio piccolo sono assolutamente contento di quello che faccio, cioè comunque cantare davanti a 1000 o a 10.000 o a 100 persone non mi cambierebbe, cioè non cambierebbe me stesso. Se lei è contento, io non ho assolutamente nessuna volontà di infrangere la sua felicità. Io ho un concetto di arte che deve avere un minimo di oggettivo riconoscimento. L'arte deve commuovere, non basta che commuova soltanto l'artista, sennò io mi commuoverei semplicemente osservando il filo delle mie unghie. Non è esattamente così. L'arte deve avere comunque la possibilità di contaminare una serie di persone, un giudizio comune, attraverso appunto la possibilità di intravedere attraverso l'opera altre realtà rispetto a quelle consuete che tutti vedono. Ma è altrettanto vero che i circuiti artistici, che il riconoscimento pubblico, che le mostre, che le grandi manifestazioni sono molte volte creatori di posticce e commerciali rappresentazioni dell'arte. Però non pensiamo che l'arte possa essere soggettiva. Io mi sento artista perché sono felice con me stesso. Si sa che non è esattamente così. Melog 2.0. Ai piedi di un fiore c'era un minuscolo insetto, ero minuscolo anch'io, minuscoli miei compagni, un'ombra ammantava il fiore, l'ombra aveva la forma e i contorni del minuscolo insetto. Ai piedi di un 800 24 0024, stiamo trattando il tema dell'aspirazione artistica, la possibilità di sentirsi artisti. C'è chi dice che si sente artista perché lui tale lo è nella sua convinzione, quindi è felice. Non staremo qui noi a ricordargli che in realtà forse l'arte un minimo di riconoscimento generale, un minimo di inquadramento in una categoria espressiva deve averci, ma non è questo importante. Oggi artista è chiunque. Mi scrive Nicola su Facebook: allora anche Steve Jobs è da considerare un artista perché ha inventato l'iPod e l'iPhone, che sono oggetti d'arte. È pur vero che oggi essere artisti significa anche aver costruito una propria splendida visibilità, aver creato degli oggetti che facciano sognare, degli oggetti che accompagnino. Essere artista è anche chi riesce ad esistere. La costruzione artistica di se stessi e diventa nel grande teatro della rappresentazione una espressione artistica. Ma noi abbiamo sentito la fase più matura, visto che oggi abbiamo portato Mauro Petrarca, il giovane di Castel di Sangro, che prendemmo noi dal nulla, che trasformammo in un cantautore macabro, estemporaneo, scrittore della nostra trasmissione, poi diventato personaggio televisivo, adesso ha fatto un canzoniere crepuscolare. Si è finalmente riuscito a fare un CD pubblicato da una vera casa che pubblica CD e farà anche una cosa in teatro. Quindi ce l'hai fatta. Ma diciamo che sto proseguendo nel mio percorso e questo è stato un momento molto importante perché appunto l'etichetta discografica Fermenti Vivi ha creduto in questo progetto e dopo il disco che è appunto nei negozi verrà realizzato uno spettacolo teatrale che avrà queste canzoni insieme poi alla possibilità di interagire con immagini sul palcoscenico. Quindi hai abbandonato il filone macabro, le bare, i vampiri, i teschi, hai capito che forse non ti portava molto lontano. Ma anche perché poi penso che dopo un tot numero di anni si può anche rischiare, ecco, che il tutto cominci a sembrare ripetitivo, almeno per come l'ho vista io dopo tutta l'ascesa radiofonica qui a Melog. Ho visto X Factor forse come il momento in cui avevamo creato dei problemi di orchite a forza di tutte le possibili e immaginabili attività scaramanti che facevano gli ascoltatori, quindi è giusto che tu adesso sei passato a una vena poetica. Canzoniere crepuscolare, quindi adesso qual è esattamente il tuo campo di azione poetica? Diciamo che quello che è in linea con il resto è forse il tono un po' malinconico. In questo caso abbiamo ascoltato una favola, che è una favola intesa nel senso proprio del termine. Nello stesso disco ci sono anche delle favole nere e dei pezzi un po' più con sfondi sonori e di inquietudine. Però fondamentalmente è un concept album, una madre che legge il diario del proprio figlio. Ogni pagina di questo diario è una canzone del disco. Figlio vivo. Tutti vivi in questo disco. Quindi il figlio lascia il diario, lo legge la mamma e ogni canzone. Sì. Beh, lentamente da qui a qualche anno scriverai un canzoniere d'amore, forse. Mi piacerebbe molto, mi piacerebbe molto. Cominciamo con le audizioni. Va bene. Chi è il primo? Mia figlia ha fatto lo scientifico. Sì. Dopo sto scientifico mi ha detto: mamma, io ho sta grande passione per il teatro. E io gli ho detto: tesoro mio, se ti piace, t'atti da fare. E allora lei si è fatta. 6 mesi di British School. Un seminario con Marlene David sul teatro. Poi si è fatta un corso di mimo a Venezia con Carmine Urbinati. Poi si è fatta un laboratorio di 3 mesi di tecniche di recitazione con Igor Malik sul teatro di... Amore, di chi era quel corso? Chekhov. Ah, Chekhov. Poi si è fatta pure uno stage con José Marquez dell'Actor. Ah, mi dimenticavo, si è fatta pure un corso di canto col maestro Nino Andreoni. Vabbè, insomma, si è fatti tutti. Sì. Certo, è molto difficile scindere quale sia la realtà rappresentata da un film come questo di Verdone, C'era una volta un cinese in coma, e la realtà di tutti i giorni che assiste ai provini, che vede poi trasformare i provini a loro volta in materia di spettacolo palpitante. Abbiamo al telefono Andrea Mucciolo. Andrea Mucciolo, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Andrea Mucciolo fa professionalmente quello che io sto facendo sciaguratamente in questa mattina, molto contrariato perché mi hanno taroccato la mia acqua colonia che uso da 20 anni. Ha fondato un sito www.galassiaarte.it che dà spazio proprio agli aspiranti artisti. Esatto. Ne vedrai delle belle, immagino. Beh, sicuramente c'è tanta mediocrità. Però è anche vero che il web è l'unico strumento democratico e accessibile per tutti gli artisti. Sì, anche perché non costa niente metterci la roba dentro, forse per quello. Esattamente. C'è il rischio di perdersi ovviamente in mezzo a tanti talenti che non sono affatto talenti, ecco, questo è sicuro. Però d'altra parte, lavorando bene sulla propria immagine, è possibile emergere realmente, come è successo d'altronde anche con me, senza ovviamente spendere nulla, ma soprattutto... Ecco, tu per diventare un artista cosa hai dovuto fare in questo caso? Ma io sono uno scrittore e ho avuto la fortuna di collaborare con una casa editrice, la Erebon Edizioni. Ah, si è scritto Come diventare scrittori oggi, quindi hai trasformato in realtà letteraria la tua biografia. Esatto, in pratica, raccontando la mia esperienza e fornendo consigli utili agli aspiranti scrittori, ho avuto la fortuna di non commettere tanti errori proprio per vedere dall'interno questo sistema. Beh, interessante come meccanismo. Tu sei diventato scrittore perché hai scritto un libro dove spieghi come si diventa scrittore scrivendo un libro per diventare scrittore. Esatto, sembra un po' un controsenso, anche se in realtà diciamo avevo già prima cominciato a scrivere, anche se semplicemente dei racconti brevi che ho pubblicato sulla rivista Inchiostro. Ma quello che mi preme sempre ribadire è che io dissento con la classe classica frase fatta e forse anche un po' ipocrita, oltre che retorica, che recita che se tu hai talento emergerai. No, non è affatto vero. No, cioè, giustamente, il mondo ingiusto, la società ingrata, chi ha talento muore rimpiangendo il mondo che non l'ha riconosciuto, chi non ha talento avrà grande fortuna. Vladimiro, buongiorno. Buongiorno. Lei ha talento? Guardi, non lo so, io quando ero giovane ho avuto un piccolo contratto con la numero uno, poi... Ma cosa sa fare? Facevo che canzoncine, eccetera. Vladimiro, se la sente, sta per chiudere la trasmissione, le affido la sigla, io non dico altro, lasciamo al caso questa lancinante maniera di chiudere. Che tratta sul lavoro dei giovani. Dai, comincia, molto bella, anche edificante, i giovani sentiranno e impareranno. Vada Vladimiro, io non ho altro da dire. Quel lavoro non mi piace... Quel lavoro non mi va, a sputare sangue e polvere, proprio non mi va, scoppia, scoppia la mia testa. Mi dispiace proprio, Vladimiro, doveva partire la sigla per un errore in regia, ahimè è partito un altro rumore che non capisco bene. Ringrazio Mauro Petrarca, ringrazio chi mi ha seguito questa mattina e ringrazio soprattutto chi ha sperato di potercela fare questa mattina, ma... ahimè, ha avuto la certezza che non ce la farà mai. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera. Alle 22.